Piace a tutti sentirsi onestamente apprezzati, ma oggi questa semplice constatazione che fa parte della nostra esperienza comune è confermata anche dalla scienza. Ne parla ad esempio Olivia Fox Cobain nel suo libro Il segreto del carisma, riportando uno studio. Una ricerca infatti mostra che anche soltanto ascoltare le parole "ottimo lavoro" pronunciate con voce metallica da un computer "ottimo lavoro" attiva nel cervello le stesse aree cerebrali attivate quando ad esempio si vince qualcosa. La conferma di quella ricerca ce l'ho quotidianamente. Qualche mese fa mi sono procurato questo contapassi con l'obiettivo di farne almeno 10.000 al giorno. E quando arrivo a quell'obiettivo, il contapassi vibra, allora abbasso lo sguardo e vedo dei fuochi d'artificio che mi dicono: bravo, hai raggiunto 10.000 passi. E in quel momento mi sento forte, mi sento in forma. Ora lascio immaginare a voi cosa può comportare questo nella vita di tutti i giorni. Pensate ai rapporti con gli altri, pensate a quante volte noi tendiamo a sottostimare gli altri, tendiamo a criticarli, e pensate invece alle volte in cui siete riusciti a far loro un complimento sincero. Pensate ai vostri figli, pensate ai vostri alunni se siete insegnanti o magari ai ragazzi del catechismo. Quanto tempo spendiamo a rimproverare, a far notare quello che non va, a dire le cose che potrebbero essere migliori. E che cosa abbiamo ottenuto in quei casi? Non dico che sia inutile far notare gli errori alle persone. Un certo Gesù, che di umanità se ne intendeva, chiama questa pratica la correzione fraterna. Non a caso, credo che dica correzione fraterna. Se non ti senti fratello, se non ti senti cioè con un legame strettissimo, allora la correzione è meglio proprio non farla. Ma oggi vi vorrei proporre qualcosa di diverso. Non capire in che modo la correzione fraterna possa essere fatta meglio, ma provare a cambiare completamente prospettiva. Prova cioè ad immaginare che cosa accadrebbe ai tuoi rapporti di tutti i giorni se ti impegnassi più spesso a fare complimenti sinceri. Prova a vederla come una specie di caccia al tesoro. Qual è il tesoro che devi trovare nella persona che hai di fronte a te? Prova ad esempio con quel collega particolarmente fastidioso con il quale non c'è molta comunanza di intenti e di pensiero. Cerca qualcosa per cui puoi fargli un complimento sincero. Può anche essere una singola parola, un singolo gesto, un singolo atteggiamento, un pensiero. Ehi, ma che bel vestito che hai oggi! Sai, quella volta in riunione hai detto quella frase che mi ha proprio colpito e mi ha ispirato. In questo aspetto del lavoro mi sei proprio di esempio. E infine divertiti a vedere l'effetto che fa un complimento sincero. Primo, fai la caccia al tesoro delle qualità di quella persona. Secondo, non avere paura a fargli un complimento sincero. Terzo, divertiti a vedere l'effetto che fa. Riguardo ai ragazzi, forse è ancora più facile farlo e ancora più fruttuoso. Perché il bambino, il ragazzo, l'adolescente sono in crescita e hanno bisogno di questo sole, di quest'acqua che dia loro la certezza che sono sulla strada giusta. Meno rimproveri e più incoraggiamenti. Ma che bello quel disegno che hai fatto! Ehi, ma lo sai che sei proprio bravo in questa cosa qui? Ma come suoni bene la chitarra? Ti sei comportato benissimo oggi, bravo! La correzione fraterna non è alla portata di tutti, è un'arte molto difficile da imparare e da padroneggiare. Ma il complimento fraterno è qualcosa di molto semplice, basta un pizzico di fantasia e di iniziativa. Certe piante hanno bisogno di una potatura una volta all'anno, ma ogni giorno, ancor di più, hanno bisogno di acqua, di luce, di calore. E noi non siamo diversi dalle piante. Ogni tanto una correzione ci fa bene, ma quotidianamente, se riceviamo la nostra dose di apprezzamento, cresciamo in modo molto più armonico e felice. Pensate a quanto tempo buttiamo via facendo pettegolezzi sulle persone che conosciamo. Il pettegolezzo distrugge nell'oscurità, il complimento invece edifica alla luce del sole. Perché allora non lo facciamo più spesso? Che cosa ci blocca? Insicurezza? Paura? Cosa aspettiamo a non perdere le 100 occasioni al giorno in cui potremmo seminare positività e incoraggiamento? Magari non siamo abituati a farlo. Basta iniziare. e gli ambienti familiari, gli ambienti di lavoro, se hanno persone capaci di fare questo, sono ambienti diversi, con un'atmosfera tutta particolare, perché se il male è contagioso, ancora di più, il bene è capace di diffondersi a macchia d'olio. Basta volerlo, basta essere per primi desiderosi di seminare positività e incoraggiamento. Provaci e fammi sapere nei commenti com'è andata.